Radio 24. Libera la voglia di fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. See the girl with the diamonds in her shoes. She walks around like she's got nothing to lose. You see the go-getter, she's everybody's type. She's a queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on big gold side. I got faith in you, baby. I got faith. PD, festa e assenze, Renzi corpo a corpo con il centrodestra, Berlusconi senza maggioranza, mi ritiro, il Corriere della Sera. Veltroni, il PD deve unire, Renzi, noi traditi da MDP, la Repubblica. Il giornale parla il Cavaliere, vinco o mi ritiro, chissà se è una minaccia o una speranza, non lo so, per qualcuno, dipende, vabbè. E invece il Fatto Quotidiano titola, ecco il trucco del fascistellum, nominati tutti i parlamentari, il giurista Pellegrino, voti un candidato, ma eleggi un altro. Insomma, è la politica che domina i titoli principali dei giornali di oggi. Buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno da Carlo Gabardini. Oh, questo corpo a corpo di Renzi con il centrodestra evoca, a me evoca più che altro una mucchiata, più che un combattimento tra il PD e Forza Italia, perché visto, diciamo, i precedenti, visto anche che la legge elettorale l'hanno fatta insieme, più che un corpo a corpo mi sembra un'orgia. Ti sembrano le prove tecniche di inciuccio. Però in realtà Berlusconi ha detto no alle larghe intese per questioni storiche. E devo dire che effettivamente, come titola Libero, Berlusconi la spara grossa: se perdo me ne vado. Perché effettivamente sta alzando molto l'asticella dello scontro. Cioè sta dicendo, anzi addirittura ieri ho letto, se non ho la maggioranza, no, quindi non se perdo, se non ho proprio la maggioranza totale, me ne vado. Però ci abbiamo anche un titolo che secondo me è un super titolo. Ce l'abbiamo la sigla? Super titolo, vai! Vabbè. Vince facile anche questa volta il Manifesto. Perché ma vince sempre il Manifesto. Però va spiegato. Ci sono Gentiloni, Veltroni e Renzi sul palco della festa dei 10 anni del PD con aria mesta e trestolina, tipo preti. E il titolo è La messa è finita. Titolo del fine anni Moretti. Certo. E poi scrivono: al Teatro Eliseo di Roma un mesto PD celebra il suo 10° compleanno e sigla la fine di una stagione segnata da sconfitte e molti abbandoni. La platea disertata da tutti i padri fondatori, presente solo Veltroni, Renzi riscopre il voto utile e finge di fare la guerra a Berlusconi. Va bene. Senti, invece su Avvenire forse abbiamo addirittura un titolone da prima pagina, che però è anche una buona notizia, quindi ci traghetta verso le buone notizie. Perché ricordiamo che questa non è una rassegna stampa normale, la fa Giulia Crivelli, noi cerchiamo un po' di spunti e buone notizie. Esattamente, Avvenire titola Obiettivo Fame Zero, vertice a Bergamo dei grandi, chiamati a confermare l'impegno per lo sviluppo globale. Segretario generale CEI, il cibo non sia merce. È il cosiddetto G7 agricolo e FAO, oggi si può fare se vogliamo. Ah, addirittura, guarda, lo leggo adesso, c'è proprio scritto oggi si può fare. Siamo noi. Vogliamo. Galantino, alta le disuguaglianze, nuovo modello. Molto bene. Oh, c'è anche lo sport sui titoli, tra poco leggeremo qualche piccolo approfondimento, qualche buona notizia. C'è anche lo sport, a parte Dovizioso che ha appena vinto. Posso dirlo in maniera brutta? Oggi non trovavo buone notizie, ero qui, mi messaggiavo con un mio amico insonne, gli dico: ma non trovo neanche una buona notizia, per si può fare? Lui mi dice: ma come? Ha perso la Juve. Però ovviamente solamente per... Vabbè, e quindi in teoria per metà degli italiani c'è una buona notizia su tutte le prime pagine dei giornali di oggi, per l'altra metà ovviamente no. Io per il mio misero tifo giallo-rosso romanista non ho niente da gioire, infatti la Gazzetta fa il doppio titolo: Juve flop, fuga Napoli. Allo Stadium, doppietta di Immobile, capocannoniere bianconeri non perdevano in casa da oltre 2 anni. Dybala sbaglia un altro rigore, ma l'applauso l'abbiamo già fatto partire. All'Olimpico invece magia di Insigne, Basta, giallorossi battuti, mestizia, 8 vittorie su 8. Cioè leggi tutto meno le notizie della Roma, giusto? Perché essendo tu romanista, siccome la Juve è stata battuta dalla Lazio, è una bella lotta. Allora, 800 24 00 24, cari ascoltatori, non dimentichiamoci che nella puntata della domenica cerchiamo un personaggio della settimana. Tra poco, dopo il traffico, vediamo anche il primo indizio, ma partiremo oggi con un'intervista sulle carni sostenibili, la filiera delle carni green che viene lanciata da Coldiretti. Di cosa stiamo parlando? Intervistiamo una bistecca? Intervistiamo praticamente il presidente delle bistecche italiane, Moncalvo di Coldiretti. No, parliamo di allevamenti in spazi giusti, all'aria aperta, senza troppi medicine, antibiotici, animali alimentati con mangimi sani e naturali. Ma noi vi chiediamo soprattutto, ascoltatori, e anche oggi vi nominiamo controllori dei fatti, in questo caso il fatto è questa, diciamo, rinascita della filiera della carne in senso sostenibile. Voi che non mangiate più carne, che comprate meno carne, che siete addirittura vegani o vegetariani, sareste disposti a tornare a consumare carne se questi animali fossero allevati in allevamenti sostenibili? Ah, tu dici coloro che decidono di non mangiare carne per motivi etici o ideologici, se vogliamo, quindi non per una questione di propria salute, perché pensano che la carne non faccia bene, se tornerebbero a mangiare carne. Mi sembra un bel quesito. 800 24 00 24, siamo qua, tra poco torniamo dopo il traffico. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova! Pantera.it, col TH. Vi presenta... Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, cari ascoltatori, ben ritrovati con Si può fare. Questa mattina all'800 24 00 24 vi chiediamo, insieme a noi, di mettere alla prova la scommessa degli allevatori italiani che vogliono rilanciare una filiera di carne sostenibile. Sareste disposti a consumare più carne, a tornare a consumare carne, se si trattasse di animali allevati in maniera sostenibile, all'aria aperta, stalle moderne, pulite, con tutti i comfort e soprattutto senza troppe medicine, senza troppi antibiotici, con mangimi sani e naturali? 800 24 00 24, ne parleremo tra poco. Adesso ancora uno sguardo ai giornali di oggi in cerca di buone notizie. Vi ricordo anche però che cerchiamo un personaggio della settimana e l'indizio ve lo vado a dare. Vai. Allora, il personaggio sa fare squadra. Sa fare squadra, pensate, una notizia degli ultimi 7 giorni, un personaggio che sa fare squadra. È un ottimo primo indizio. Posso dare un indizio sull'indizio perché le parole sono importanti, diceva noi. E quindi vi ricordo anche che chi vince, chi indovina per primo, si porta a casa i biglietti della mostra dell'Egitto allo splendido MUDEC di Milano. Allora, visto che tu mi hai evocato il G7 dell'agricoltura, che in prima pagina Avvenire, che ci cita perché sì, dice oggi dice? Si può fare, si infatti può è fare. Domenica si giustamente cioè. Certo, e quindi l'Avvenire lo sa e ci cita. E qua che succede? A Bologna parliamo sempre di alimentazione, di cibo buono, cibo naturale, cibo che fa bene. I Bologna Award del cibo, organizzati da FICO e dal CAB, il Centro Agricolo Alimentare Bolognese, che ha premiato delle storie che riguardano il cibo. Stephen Ritz, il maestro che porta a scuola la magia degli orti verticali, e una pianta ci insegna tutto, dice. E poi c'è anche quest'altro signore qua, che Michael Becker, che è un manager di Google, olandese trasferitosi nella Silicon Valley da 6 anni, guida Google Food, il manager che sceglie il menù per tutti i dipendenti di Google. Provate, dice, la farina di caffè. E sono due storie che vengono da Bologna, dove appunto sono stati premiati per la qualità del cibo, sempre importante. Io invece ho una buona notizia, una notizia che parte come una buona notizia e poi diventa probabilmente dell'altro. Siamo a Napoli, Tullio Pironti, famoso editore ottantenne, amico di Fernanda Pivano, che ha pure un Nobel nel suo catalogo, insomma un editore importante che ha più di 80 anni, voleva regalare 200.000 libri alla città di Napoli, li mette in un magazzino e che cosa succede? In realtà in questo magazzino bisogna ospitare delle bici elettriche, li mandano comune. Un po' del comune, aia, gli mandano un po' di avvisi e insomma questi libri finiscono al macero, no. Quindi è una battaglia fra si può fare, perché da un lato ci sono le biciclette ecosostenibili, quindi l'ecosostenibilità, e dall'altra la cultura, e hanno vinto le biciclette, non sappiamo se ne siamo contenti. Non si è potuto fare in questo caso di regalare, esatto, questi libri. Si poteva fare tutte e due le cose. L'editore. Allora, ancora però, dai titoli principali dei giornali, una buona notizia, il secondo titolo principale del Corriere della Sera, che ci ricorda: la capitale dell'ISIS cade, ultime ore a Raqqa, assediata. Le forze siriane a maggioranza curda e la coalizione internazionale a guida americana hanno annunciato che è in corso la battaglia finale per strappare all'ISIS la città di Raqqa, considerata la capitale dello Stato islamico. L'operazione potrebbe tuttavia richiedere ancora giorni, sarebbe stato riconquistato l'85% della città, popolazione in festa nei quartieri già liberati. Ricordiamo, come ci ricorda il Corriere della Sera interno, che Raqqa è una città del nord della Siria caduta sotto il controllo dell'ISIS nel 2014. Da allora viene considerata la capitale del sedicente Stato islamico. Insomma, speriamo che sia così, e questa è davvero una buona notizia. Poi, che altro? Allora, beh, anche qui seguiamo le evoluzioni della vicenda Weinstein, perché se ne parla tantissimo sui giornali. Un'ultima tappa è questa: a molestare si finisce male, gli Oscar perdono il re, espulso Weinstein. Infatti l'Accademia degli Oscar ha cacciato il produttore al centro dello scandalo sessuale che sconvolge Hollywood. Non c'è ancora stata nessuna sentenza, nessun processo, però insomma le accuse sono tantissime nei suoi confronti, quindi sulla stampa. È stato dimesso anche dalla società di produzione che lui stesso ha fondato insieme al fratello, quindi fuori da tutto ormai. Sulla stampa c'è una lunghissima intervista ad Asia Argento, che è riportata anche in prima pagina, con tanto di foto molto grande. Io mangiata dall'orco e tradita dalle donne. Allora, un'altra buona notizia, sempre sulle prime pagine dei giornali, oggi quindi ci forniscono spunti, è su Repubblica l'intervista al ministro Del Rio, dei trasporti, che dice: Del Rio, 30 miliardi per i trasporti, e là una notizia, presto saranno detraibili le tessere del bus. Le tessere sarebbero gli abbonamenti. Ah, questa è veramente una buona notizia, anche perché l'ho appena fatta. Ho fatto l'abbonamento di ottobre, ma pensavo già da che parte fosse la ricevutina, perché potrebbe tornare. È molto complicato in realtà avere la ricevuta, con la partita IVA è molto complicato. Allora, intanto in questa pagina dedicata ai trasporti che fa Repubblica si vede come dal 2013 ad oggi siano cresciuti gli italiani che si spostano sia in autobus che in tram, sia in treno. Sono percentuali in crescita, quindi sappiate che parliamo di un terzo degli italiani, però poi parliamo dei bambini, dei disabili, degli anziani che non possono guidare, o di chi anche decide di lasciare a casa l'auto proprio per una questione di non ingorgare ulteriormente le città. Quindi ci sono 30 miliardi, dice Del Rio, che però mi permetto di dire, questi miliardi che volano investiti di qua di là sono sempre su carta, bisogna vedere. Infatti nell'intervista gli viene detto, e lui dice no, sono già stanziati, vabbè, comunque in 15 anni 30 miliardi, 10 per i mezzi pubblici, quindi gli autobus e i treni, treni regionali 4 miliardi e mezzo, 6 miliardi e mezzo per le metropolitane e via andare. E poi però dice Del Rio che bisogna ancora trovare questi 70 milioni di euro nella legge di bilancio, che è in discussione proprio adesso, per fare quella cosa che si diceva prima, cioè detrarre l'abbonamento degli autobus dalla dichiarazione dei redditi. Se arriva è una buona notizia. È una buonissima notizia. Però noi facciamo il classificone, il classificone delle 5 migliori notizie della settimana. Si può fare. Allora, senza indugi e senza paure, abbiamo trovato queste 5 notizie. Al quinto posto abbiamo Luxottica, che si fa mecenate e finanzia con 2 milioni di euro il restauro del ponte dell'Accademia a Venezia. Non è tantissimo, 2 milioni di euro per Luxottica non sono tantissimi, però insomma, ce ne fossero di più di mecenati, così sarebbe bello per tutte le città. Però a fianco alla buona notizia c'è anche la cattiva notizia, perché i lavori dureranno quasi un anno, quindi per un anno a Venezia quel ponte sarà chiuso. Sarà chiuso. Vabbè. Al quarto posto una notizia molto bella, che era già una notizia bella: Valerio, il ragazzino down che quest'estate in spiaggia ha salvato una bambina che stava affogando, buttandosi, non avendo nessunissima esitazione, buttandosi in mare per bellissima salvarla. Storia. Bellissima storia, già quest'estate, a 17 anni, e ora arriva un contratto di lavoro da bagnino. Sarà il bagnino nella piscina comunale di Latina, è un contratto di formazione di 1500 euro. Bene. Quindi siamo veramente molto contenti e facciamo i complimenti e anche gli auguri di buon inizio lavoro a Valerio. E a me toccano tutte le notizie di solidarietà, di beneficenza. In questo caso è Djokovic, il tennista Djokovic, che ha deciso di aprire un ristorante per persone bisognose. Ha detto: lo devo ai miei tifosi. L'ex numero uno al mondo, fermo da Wimbledon per un problema al gomito, pronto ad inaugurare un locale che offrirà pasti gratuiti alle persone meno agiate. Lui ha già aperto altri due ristoranti, uno a Belgrado, si chiama Novak, un altro a Monte Carlo, però questi sono ristoranti normali. Questo terzo locale lo vuole dedicare alle persone che hanno bisogno. Dice: ho già guadagnato abbastanza per sfamare tutta la Serbia. Ha molto ambizioso. È vero. Mi era piaciuta l'onestà, diciamo, di Djokovic, di dire: ho sufficienti soldi per sfamare. Di solito uno dice sempre: sì, ne ho un po'. Comunque, al secondo posto una notizia che è una buona notizia, però è verso una buona notizia. Speriamo che aumenti. Istat in calo, economia sommersa e illegale. L'economia sommersa e l'attività illegale in Italia valgono 208 miliardi di euro, che è il 12,6% dice, del PIL. Ma che notizia buona ci stai, esatto, dando? Esatto, questa invece sembra una notizia terribile. Invece è che nel 2015 c'è una brusca diminuzione dell'incidenza della cosiddetta economia non osservata sul PIL. Nel senso che nel triennio 2012-2014 si era molto alzata e adesso invece siamo in calo. Quindi la osserviamo, la stiamo osservando, deve diventare migliore come notizia, è un buon inizio. Poi, essendo sommersa, non è neanche semplicissimo da essere stimata. Esatto, ce lo si domanda sempre ogni volta. Anche perché poi contemporaneamente nella stessa notizia c'è che aumentano i lavoratori in nero, quindi... Al primo posto abbiamo questa notizia che riguarda il mondo, il globo, l'universo, tutti quanti. Ecco perché l'abbiamo messa sul podio: è stato lanciato dalla base russa di Pleshtek il satellite Sentinel 5P, il primo al mondo in grado di fornire una mappa completa degli agenti inquinanti presenti dove? Nell'atmosfera. Eh già, perché dobbiamo preoccuparci purtroppo anche di questo. Comunque questo satellite, frutto di una collaborazione tra la Commissione Europea e l'Agenzia Spaziale Europea, monitorerà l'inquinamento che c'è nello spazio. Monitoriamo e poi anche ripuliamo, troviamo un modo anche per... Ah, nello spazio? No, no, sì. Ma nel nostro spazio? Nell'atmosfera. Ciao Alessio, ciao Carlo, sono Massimo, sono nel 2026, immagino che la mia voce si senta forte e chiara. Sono felice perché sono riuscito a fare quello che nel 2016 non ebbi il coraggio di fare, ovvero di taggare il mio corpo, di biohackerare il mio corpo con un microchip sottopelle. Facemmo questo esperimento nel mio laboratorio nel 2016, nel novembre del 2016, e non ebbi il coraggio di farlo, anche perché le siringhe con cui si iniettavano i microchip sottopelle erano ancora molto grosse. Ho appena fatto il mio impianto, vi faccio sentire una cosa incredibile: non ho in chiave in mano, non ho tag, non ho nulla, sentite qua, solo con la mia mano avvicinandola alla porta. Avete sentito? Sono entrato nel cancello di casa mia soltanto avvicinando il palmo della mia mano a un interruttore NFC che ha letto il mio chip sottopelle e si è aperto. Naturalmente posso pagare l'abbonamento del treno, posso pagare al supermercato, insomma non più chiavi, non più banco, ma solo il mio chip sottopelle, sicuro e protetto nel mio corpo. Ci sentiamo presto per altre notizie del futuro. Ciao! Si potrà fare di Massimo Temporelli, però questa volta uno dice: ma chissà che notizie che si inventa. No, sappiate che in Svezia ci sono già 3.000 persone che ci hanno stanno sperimentando microchip sotto pelle e ci pagano per esempio il biglietto del treno, l'abbonamento proprio e milioni di gatti, perché tutti, la maggior parte dei gatti e anche i cani, mi sembra che i cani siano obbligati mentre i gatti no, hanno il chip sotto pelle, quindi è una tecnologia che già si sta testando anche sugli animali. 800 24 00 24, cari ascoltatori, cerchiamo un personaggio della settimana che sa fare squadra, quindi chiamate, si vincono i biglietti della mostra Egitto al MUDEC di Milano, e poi tra poco torniamo parlando di carni sostenibili. Sareste disposti a tornare a mangiare carne, voi che avete smesso, o a mangiarne di più, a consumarne di più, se sapeste che viene da animali che sono allevati in maniera sostenibile? È questa la proposta della Coldiretti, tra poco. Vi presenta Si può fare, cronache da un paese migliore. Oggi partiamo da questo, si può fare qua, i giornali hanno scritto nasce la filiera della carne green, così la bistecca diventa ecosostenibile. Di che si tratta? È stato presentato alle bonifiche ferraresi il progetto per cambiare gli allevamenti, mangimi sani, spazi più confortevoli, una filiera al 100% italiana per rilanciare i consumi sani di carne. Ne parliamo con Roberto Moncalvo, presidente di Coldiretti, benvenuto, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora Moncalvo, in che cosa consiste questa filiera di carne green? Perché io ho lanciato il tema e ho visto che già, diciamo, all'SMS gli ascoltatori al 349-238-6666, ma li sentiremo anche in diretta, dicono le solite cose di facciata, non cambia nulla, eccetera, eccetera. Qual è la svolta che state cercando di imprimere o avete annunciato? Ma allora, intanto partiamo da un concetto sul consumo di carne. Bloomberg quest'anno nel suo indice sulla salute globale dei paesi si individua come il miglior paese al mondo per qualità della vita e longevità e ci dice che tutto questo è legato principalmente alla dieta mediterranea, quindi un consumo equilibrato di tutte le componenti della nostra dieta alimentare, carne compresa. Quindi il tema non è mangiare meno carne, il tema è mangiare una carne migliore. Cosa è accaduto negli ultimi 25 anni? Noi abbiamo perso un quarto dei bovini allevati in Italia, ma importiamo quasi il 50% di carne bovina dall'estero, che non ha la stessa garanzia in termini di sicurezza e di controlli che è garantita, oltre che di sostenibilità, che è garantita dal sistema allevatoriale. Però scusi Moncalvo se la fermo su questo, però dobbiamo anche dire che innegabilmente c'è una difficoltà, una frenata del mercato di fronte a volte a notizie magari allarmistiche, eccessi di preoccupazioni per malattie o cose, però di fatto si sta un po' diffondendo questa tendenza. Allora la domanda che io le faccio, mi viene naturale, gli allevatori, anche quelli italiani, però nonostante quello che dice Bloomberg, che ruolo possono aver avuto in questo, diciamo, allontanamento di una parte dei consumatori dal mercato della carne, insomma, il ruolo degli allevatori, perché in effetti se no non annuncereste in qualche modo questa svolta. Gli allevatori in questi ultimi anni purtroppo hanno subito molto di più di quanto sarebbe stato normale il calo dei consumi che c'è stato. Noi abbiamo perso il 23% di consumi di carne negli ultimi 10 anni, ma gli allevatori hanno perso molto di più in termini di possibilità di allevamento, perché c'è stata una sostituzione con carni che costano meno. Allora il tema è: puntiamo ancora di più sulla sostenibilità e sul benessere animale che l'allevamento italiano può garantire. Come fare questo? Puntiamo davvero su una filiera di carni sostenibili che è già partita, che punta tutto sul bovino nato, allevato e macellato in Italia. Questa è una grande opportunità di sicurezza e sostenibilità dell'allevamento, di benessere animale ancora migliorato, ed è una grande opportunità per fare tornare animali allevati in allevamenti sostenibili con molti pascoli nelle aree interne del paese, quindi le montagne, le colline, soprattutto del centro-sud, dopo anni in cui abbiamo perso opportunità economiche, occupazionali e abbiamo perso presidio dei territori contro gli incendi, contro il dissesto idrogeologico. Allora puntiamo su un allevamento ancora più sostenibile, lo facciamo avendo lanciato questo progetto che è già operativo e che vede la sua principale centro operativo nell'azienda agricola più grande d'Italia, Bonifiche Ferraresi, che ha lanciato la stalla davvero più sostenibile, caratterizzata dal più grande livello di benessere animale. Modello sarà replicato in tutta Italia e soprattutto darà la possibilità davvero, anche con le nuove tecnologie in agricoltura e in allevamento, di avere animali più sani con ancora un miglior grado di benessere animale, quindi per poter offrire ai consumatori italiani che scelgono di mangiare carne, e noi sappiamo che il 95% degli italiani ancora mangia carne, possano scegliere la migliore carne. È ovvio che questo argomento può non toccare, non interessare, non modificare il punto di vista di chi è completamente vegano, certo, vegetariano, che certo ha scelto per motivi etici, ideologici, per principi suoi, di non usare gli animali per macellarli, per nutrirsi, però invece per tutta quell'altra parte di popolazione che non ha questo, diciamo, questo principio contrario, ma si è allontanata dal mondo della carne perché ha visto immagini di allevamenti scioccanti, perché non si fida di come vengono allevati gli animali, perché vengono dati troppi medicinali, troppi antibiotici. In questo caso io lo chiedo agli ascoltatori: è possibile che questo annuncio della Coldiretti e questa filiera, diciamo, di carne green che si annuncia possa avere un effetto? 800 24 00 24, quindi se volete chiamate su questo, anche perché effettivamente, senza scomodare i vegani, è sicuramente una buona notizia, nel senso che ci sono persone che mangiano la carne, occupiamoci anche semplicemente di quelli, e mi sembra molto preciso la questione del fatto che il 45% della carne che gli italiani mangiano viene dall'estero. Se invece ce la facciamo a casa nostra e riusciamo a farla in maniera migliore, mi sembra una buona notizia. La domanda che le vorrei fare è: ci sarà un'etichetta? Come capiamo che questa è carne green che viene dalla filiera corretta, e quanto ci possiamo fidare? Che questa è la solita domanda. Qui quindi il primo tema è leggere le etichette che già oggi esistono e avere la garanzia che quando un bovino è nato, allevato e macellato in Italia è figlio di un sistema di allevamento che garantisce tanto in termini di sostenibilità ambientale, di benessere animale, ma anche di controlli, perché ricordiamoci che l'Italia, fra i tanti primati che ha rispetto all'agricoltura e all'allevamento, ha un sistema di controlli veterinari che è in mano al Ministero della Sanità, e questo è un caso unico al mondo e positivo, che è imbattibile. Garantisce terzietà nei controlli, ed è chiaro che questa massima capacità di fare i controlli la si può realizzare nel bovino che nasce nel nostro paese, che viene allevato nel nostro paese, macellato nel nostro paese. Noi questo messaggio lo lanciamo ovviamente, come voi avete detto correttamente, per quel 95% di italiani che vogliono mangiare carne e che hanno diritto di avere tutte le informazioni per poter scegliere la carne migliore, più controllata e figlia di allevamenti che garantiscono il massimo livello di sostenibilità e di benessere animale. Senta, siamo quasi in chiusura di questo spazio, Moncalvo. Le voglio chiedere però una cosa che riguarda una notizia che non riguarda la carne, ma l'olio, perché tra gelate e siccità ho letto di notizie che parlano di un 50% di produzione a rischio, possibile? Allora, sicuramente ci sarà un calo importante della produzione. In questo momento è difficile. Che significa aumento dei prezzi? Suppongo. La campagna è appena iniziata. Noi veniamo da alcune campagne abbastanza sofferenti dal punto di vista della quantità della produzione. Ciò che noi immaginiamo per quest'anno, stimiamo anche alla luce delle primissime fasi della raccolta in cui siamo entrati, è un calo che in alcuni territori sicuramente può arrivare al 40-50%, che non influisce in termini negativi sulla qualità, anzi c'è una altissima qualità delle olive, e quindi ci sarà sicuramente un buon livello in termini, un ottimo livello in termini qualitativi di olio. Ciò che è importante fare, come sempre, anche nell'olio, è guardare le etichette, cercare quando è possibile di andare verso prodotti che garantiscono al 100% l'italianità, anche qui non solo per un sistema di controlli, ma per la qualità figlia della biodiversità e della sostenibilità dell'olio italiano. Senta, un'ultima cosa, un'altra notizia buona di questa settimana secondo noi è la crescita dei mercati contadini, delle spese fatte nei mercatini organizzate direttamente dai produttori, più 11% nel 2017. Uno potrebbe dire, ma purché si faccia spesa al supermercato, al mercato contadino, chi se ne frega, l'importante è che in qualche modo l'economia italiana giri. Però noi sappiamo che il settore agricolo ha un problema di redditività, spesso si lavora e non si incassa abbastanza, quindi tutto quello che serve a nutrire, a mantenere in piedi questo sistema, ci sembra una buona notizia. Come dobbiamo interpretare la crescita dei mercati contadini? Beh, direi due tipi di riflessioni. La prima, evidentemente, è un grande strumento per gli agricoltori per poter migliorare la propria posizione nella filiera, quindi per avere un prezzo riconosciuto che è giusto rispetto al lavoro che fanno. Molto spesso, purtroppo, nelle filiere lunghe, quando l'agricoltore vende a un'industria o alla grande distribuzione, invece il proprio potere contrattuale è bassissimo. La seconda, importantissima, questa è la conferma che i cittadini stanno cercando di avere cibo tracciabile, di cui è certa l'origine, di cui sono certe dei volti dei produttori, quindi c'è questa grande domanda di trasparenza e di vedersi in faccia anche a volte. E il mercato contadino è il luogo evidentemente più naturale perché tutto questo possa avvenire. Coldiretti con Campagna Amica ne ha sviluppati oltre 1200 che settimanalmente sono attivi nel nostro paese e oggi il fatturato è superiore ai 3 miliardi di euro, quindi è nata una nuova forma di distribuzione. Bene. Devo chiudere, grazie a Moncalvo, presidente di Coldiretti, dunque 800 24 0024, rilanciamo la palla agli ascoltatori su questi temi tra pochissimo, torniamo dopo il traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Andiamo con Ilaria, primo ascoltatore di oggi, ascoltatrice, che ci chiama da Milano. Benvenuta. Sì, ciao. Ciao. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Allora, io sono diventata vegetariana 15 anni fa. L'ho fatto per motivi etici, perché amo tantissimo gli animali. E devo dire che non tornerei mai a tornare carne, perché poi ho scoperto che la mia salute è migliorata tantissimo. Cioè, sto molto meglio adesso rispetto a questi anni fa. Questi annunci, diciamo, di Coldiretti ti sembra che possano in qualche modo migliorare? Anche al di là del fatto che tu hai scelto comunque di non mangiare carne. Sì, io certo, se queste povere bestie vengono allevate a terra, hanno una vita, chiamiamola decente, senz'altro povere bestie. Però chiaramente per cioè, il concetto è, se proprio bisogna ammazzarle queste bestie, va bene ammazzarle bene, però tu non le ammazzeresti. No, ma in nessun modo, in nessun no, modo. Questo no, l'abbiamo premesso. Io ti ringrazio, Ilaria, per aver chiamato, però è chiaro che dal punto di vista di un vegetariano convinto, probabilmente è difficile che cambi anche di fronte a questo. E ci sta, che ognuno mangi quello che vuole. Come hai detto giustamente, esatto. Tu, Carlo, occupiamoci anche di quella italiana. Certo. Sono tanti che la mangiano, ecco. La carne. Carla da Roma, benvenuta. Ah, buongiorno, buongiorno. Prego, su cosa volevo intervenire? Io volevo provare a indovinare il personaggio. Chi è? Secondo me, ma sono di parte, Simone Inzaghi. Perché sei di parte? È perché sono laziale. Ah, pensavamo che fossi una fidanzata. No, magari. Scusate ragazzi, posso dire una cosa? Dilla. Volevo chiedere scusa a tutti i romanisti e ai tifosi juventini, ma ieri sera è stata una goduria per me. Ma hai sentito quando l'abbiamo messa fra le buone notizie? Certo che l'ho sentita. Io posso solo dire beep e basta. Grazie Carla. Non era il personaggio Simone Inzaghi, ma grazie di aver chiamato. Adesso comunque parliamo di sport perché abbiamo una notizia che viene da Parma. Non so se ci abbiamo anche una sigla per introdurla o no, non ce l'abbiamo, siamo così tranquilli. Diamo il benvenuto al vice sindaco assessore allo sport del comune di Parma, eccolo qua. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Perché Parma lancia questa iniziativa Tutti in Campo, lo sport gratis per i bambini che normalmente non se lo possono permettere. Non sarà forse la priorità per tanti comuni questa, però a noi ci è sembrato bello, no? Che ci si occupasse di questo aspetto, sostenere le famiglie che non possono permettersi di portare i figli alle attività sportive, come fanno quasi tutti i ragazzi oggi. Perché avete scelto di sostenere questa iniziativa, assessore? Perché perché crediamo che lo sport abbia un valore fondamentalmente educativo e le società sportive oggi rivestano un ruolo anche di presidio sociale del territorio. Ci sono tante situazioni che ancora fortunatamente non sono di emergenza a livello familiare, ma magari sono precarie, e le famiglie hanno bisogno di una rete intorno a loro che li sostenga e che eviti che si vada in situazioni di emergenza. Lo sport può essere molto educativo per i ragazzi, ma può essere anche un sostegno importante per le famiglie che tante volte per motivi lavorativi magari cambiano città e non hanno quelle reti naturali come era la famiglia allargata una volta che li sostenga. Quindi abbiamo scelto di fare, chiamiamola prevenzione dal punto di vista sociale, e abbiamo scelto di investire sui ragazzi, perché il ruolo che hanno oggi le associazioni sportive crediamo sia fondamentale. Certo. In un mondo, aggiungo, sempre più competitivo, tante volte le associazioni sportive dilettantistiche invece riescono a trasmettere dei valori di collaborazione che magari anche a scuola si dovrebbe, credo, trasmettere maggiormente. È un bellissimo progetto, ma quindi tutti gratis dai 7 ai 17 anni o solamente i bisognosi? Noi abbiamo posto una soglia di ISEE di 12.000 euro per accedere a questo tipo di contributo. Quindi al di sotto dei 12.000 si va gratuitamente. Esatto, consideri che è più o meno il doppio rispetto alla soglia che tengono di solito i servizi sociali per accedere ai contributi economici, proprio per quello che dicevo prima, non ci si vuole far carico solo delle situazioni di emergenza. Ma un po' di promuovere lo sport in generale, tutti gli sport? Tutti gli sport, vale anche assolutamente sì. Anche gli scacchi? Sì, no, gli scacchi no. Invece sì, perché gli scacchi rientrano nel CONI e credo che gli scacchi assolutamente. Uno sport assolutamente nobile che allena la mente delle persone, mi piacerebbe che nel tempo nella nostra città crescessero maggiormente. Noi abbiamo un grosso evento di dama tutti gli anni, ma gli scacchi faticano a crescere perché c'è meno tradizione. Tutti in campo, questa è l'iniziativa di Parma. E si fa anche più fatica con gli scacchi piuttosto che con la dama, così mentalmente. Sì, sono più pesanti. La Spagna che le insegnano a scuola, noi invece lo riteniamo una cosa di secondo livello. Così, per avere un'idea, quanto avete messo a budget il comune in 20 secondi? Quest'anno 130.000 euro. La speranza è che non bastino, nel senso che c'è talmente tante domande che poi ci sia bisogno. È bello sentire un assessore che dice la speranza è che non bastino, anzi è un vice sindaco. È molto bello, grazie mille. Dobbiamo chiudere, questa è la Parma. Tutti in campo, 800 24 00 24, torniamo dopo il GR. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Oxford punta a diventare la prima città britannica ad emissioni zero, perché le autorità cittadine hanno detto che entro il 2020, cioè domani, oggi, ieri praticamente, non potranno non più circolare così. Non potranno più circolare auto inquinanti, ma non diesel Euro 4, Euro 5, nessuna auto a benzina o a diesel, cioè solo cose non emettono emissioni. Oxford. Questo è il futuro. E poi c'è un'altra piccola notizia. Città, un valore simbolico, una piccola città, però insomma potrebbe diventare una cosa che fa scuola. Nel frattempo, a proposito di emissioni, l'ONG Client Earth, che noi abbiamo sentito, sono quelli che hanno fatto ricorso a Londra, in Germania, Amburgo, che stanno mettendo anche in Lombardia a soqquadro le cancellerie di mezza Europa, ha fatto ricorso alla Corte di Giustizia Europea contro la clausola di riservatezza, attenzione, contenuta nel regolamento europeo sulle informazioni delle emissioni degli autoveicoli, cioè le compagnie automobilistiche sono tenute dopo il Dieselgate a informare le autorità europee su come controllano le emissioni delle loro auto, però lo fanno in maniera riservata, cioè nessuno può sapere il contenuto di queste cose. Client Earth dice no, dovete renderlo pubblico, perché deve essere, tutti devono sapere se vogliamo evitare davvero un altro Dieselgate. Credo che abbiano delle ragioni, eh? Quindi li seguiamo intanto. Io invece oggi è la giornata delle notizie ibride. Per me ho una buona notizia che per metà è una buona notizia e l'altra metà è da indagare. C'è un boom assoluto di biciclette a Milano, dell'uso della bicicletta. Bike pare sharing. Che siano più di 100.000 le persone che ogni giorno si muovono pedalando. Non parliamo solo di bike sharing, parliamo tutto in generale. Però la domanda che ci si fa è: Milano è pronta ad accogliere questo boom? È pronta ad essere la città delle biciclette? Non ancora, ci si sta muovendo verso, ma non ancora, perché mancano parcheggi, perché bisogna i parcheggi, ovvero le rastrelliere, quelle del bike sharing, perché ci sono solamente 215 chilometri di corsie riservate, che io quando l'ho letto ho detto, vabbè, a me non sembra un numero piccolo, perché Milano, insomma, però per fare un esempio, a Monaco i chilometri di piste ciclabili sono 1200. Contro quelli di Milano che sono 215. Beh, quindi effettivamente siamo in rincorsa e dobbiamo pedalare, direi. Chiuderei dicendo che dobbiamo pedalare. Notizie sul fronte, così diciamo, delle biciclette e delle auto a zero emissioni. Allora, andiamo con gli ascoltatori che cercano di indovinare un personaggio della settimana che sa fare squadra. E sentiamo Carlo, va, da Bologna. Pronto? Pronto? Vai Carlo. Sì, ciao. Io avevo pensato ad Allegri, l'allenatore della Juve. Perché? Perché so che aveva fatto una donazione per i terremotati, chiedendo di rimanere anonimo, poi la cosa è stata resa pubblica. E niente, per questo. Bah, la notizia c'è assolutamente, non so se è un esempio di uno che vuole fare squadra nel momento in cui fa un ottimo gesto, ovvero fa una donazione e vorrebbe che non se ne parlasse. Non era il personaggio di questa settimana, ma ti ringraziamo di aver chiamato, di modo che abbiamo raccontato anche questa parte di Allegri nel giorno in cui tra l'altro ha perso contro la Lazio. Sa fare squadra il nostro personaggio, ma in un altro modo. Alberto da Roma, vai. Sì, pronto. Sì. Per me il personaggio è Lionel Messi, che da solo ha fatto fuori l'Ecuador. Da solo, da solo, vabbè, mica giocava da solo, vabbè, però Messi è sempre Messi. La notizia ci sta, sicuramente sa fare squadra Messi, però non era lui, non era lui. Non era lui. Tutti sul calcio si sono buttati. Ma però, devo dare un secondo indizio? Aspetta, arriviamo al traffico e poi lo diamo. Va prossimo bene, blocco. Va bene. Cristina da Venezia, vai. Sì, pronto. Pronto. Pronto. Pronto, ciao. Ciao. Buongiorno. Ah, buongiorno. Vabbè, dai, Cristina. Sì. Buongiorno, vai. Buongiorno. Avevo pensato a un'idea. Sì. Maurizio Sarri. Personaggio della settimana, perché? Allenatore del Napoli. Sì, ha vinto, sì, sappiamo bene chi ha vinto la partita con Bip. Qual è la notizia? Qual è la notizia legata a Sarri di questa settimana? Possiamo anche sorvolare, l'abbiamo già detta. È la vincita di ieri. Ecco, sì, è la vincita. Non importa. No, pensavo ci fosse anche un qualcos'altro. Ah, no, perché ho detto c'è la Roma. No, ma la notizia c'è, non si preoccupi, è tutto corretto, ma non è il personaggio che avevamo pensato. Però la ringraziamo di aver chiamato. Sono io che sono troppo sensibile a questa notizia e no, non sorvoliamo. Elisabetta dalla provincia di Roma, però adesso il secondo indizio cominciamo, diamolo prima del traffico, Carlo, così gli ascoltatori si gasano un po'. Allora, il personaggio che cerchiamo si interessa alla musica, però non è la sua prima attività. Quindi sa fare squadra, però attenzione, colpo di scena, stiamo così. Ci stiamo avvicinando. Stiamo cambiando musica, ma non prima attività. Elisabetta dalla provincia di Bologna, vai. Pronto? Sì. Sì. Pronto, buongiorno, sono Elisabetta. Buongiorno. Su cosa volevi intervenire? Io volevo parlare invece per la carne green. Sì? Prego. Sì. Io ho una certa età, quindi sono pensionato, 75 anni. Ho sempre consumato specialmente carne italiana, di tutti i tipi, non prendendo sempre solo la bistecca, ma conigli, polli, bovini, tacchini, tutto quello. Non eccedo in carne, perché so che non fa benissimo. Brava. Però la consumo. Ascolti, io sono molto scontenta, perché malgrado dicono leggete le etichette, sì, comprate italiano, comprate il mercato bovino, poi si scopre lo stesso. Roba bio, roba cosa che va a report e trova di tutto, maiali, allevati in maniera indecente. Allora, pensavo fosse un insulto quel maiale, era detto con tanta convinzione che sì, pensavo che dicesse forse maiale. Sì, allora, forse sì. Decisamente sì, però detto questo, siamo in Emilia Romagna. Allora, però abbiamo Elisabetta, va tutto bene, va tutto bene, Elisabetta. La fiducia. Elisabetta, un attimo, ecco, la fiducia. Noi abbiamo parlato stamattina, il passo in avanti è l'annuncio di una parte degli allevatori italiani di dare vita a questa filiera della carne green, carne sostenibile con tanto di etichettatura, eccetera, allevamenti all'aria aperta, più spazio, mangimi sani, poche medicine. Domanda secca, ci spera o si fida poco? Ci spera? Io ci spero, ci mi spero. Fido poco, va bene. Mi sono buttato nel pesce e tac, lo sapevo anche prima, va bene. Anche il pesce adesso ha i suoi bei grossi problemi. Va bene. Piccolo pesce non allevato, ma magari pescato. Però oggi parliamo di carne, Elisabetta, grazie, grazie, buona anche giornata. Sì. È diverso. Sì, va bene, grazie. No, certi ascoltatori bisogna un po' entrarci così, perché sennò andiamo avanti fino a domani. Christian da Trieste. Christian? Sì, salve, buongiorno. Sono buongiorno. Christian da Trieste. Io volevo parlare anche io di carne green, però ho visto che ne ha trattato la signora precedente, sì? Non mi dilungo più di tanto. Devi dire il tuo punto di vista. No, mica, come l'ha trattata? Non è mica la portavoce, allora, di tutti. Io vengo da Firenze e la Fiorentina per me è un must. Sì. Sono abituato a mangiare carne non sempre, perché anche secondo me purtroppo con tutti i medicinali che ci mettono non è, insomma, non è sano. E quindi induco i giovani soprattutto a fare un po' più di attenzione, perché è difficile fare spesa, perché tutti siamo di furia, però bisogna controllare bene le etichette. E quando, siccome abbiamo questi organi che ci aiutano anche nel controllo e nel gestire il processo. Va bene, Christian, però la domanda di oggi è: vi fidate o no? Siete disposti a credere all'annuncio degli allevatori che parlano di una nuova filiera di carni sostenibili in allevamenti sostenibili? Sì, io mi fido perché quello italiano dovrebbe essere controllato, e ho trovato molta differenza tra un prodotto italiano e un prodotto francese, spagnolo, e non solo nella carne ma anche nella frutta. Va bene, quindi abbiamo un ascoltatore che pur con qualche timidezza, con qualche distinguo, però è disposto a fidarsi, insomma, a crederci. Certo, ti leggo un sms velocissimo, sempre sulla questione della carne, che ci dice: provate a parlare con la Innocenzi, lei ha seguito gli allevamenti italiani, l'abbiamo intervistata il giorno in cui è uscito il suo libro, quindi parliamo spesso con le Innocenzi. Siamo stati forse tra i primi. Proviamo con Bruna, intanto a indovinare un pregiaggio della settimana, poi andiamo sul traffico. Bruna, vai. Buongiorno, io volevo buongiorno dire il ministro Calenda. Sì, perché? Perché è intervenuto per l'Ilva e sta intervenendo per Almaviva, quindi è uno che fa gruppo. Fa squadra. E sulla musica com'è il ministro Calenda? Veramente non è rimasta spiazzata. E siccome non lo sappiamo nemmeno noi, è il modo in cui ci spiace dirle che non è il personaggio che avevamo scelto, ma la ringraziamo molto di aver chiamato. Traffico. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova. Pantera.it col TH. Vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. You won't get much closer until you sacrifice it all. You won't get to taste it with your face against the wall, wall, wall. Get a back admit, show the power trapped within. Do just what you want to and I'll stand up and begin. Allora, sono state consegnate in settimana 82.000 firme al presidente del Senato Grasso per sbloccare subito la legge al Senato, la legge sulla difesa del suolo. Parliamo della coalizione Salva il Suolo, c'è anche una petizione europea che sta girando, si chiede comunque di fare una legge che regoli il consumo di suolo limitandolo, no? Il più possibile. È un tema di cui ci occupiamo spesso. ma non per il gusto di avere qualche pratino verde sotto casa o per le preferenze snobistiche di questi ambientalisti che così, diciamo, vogliono fermare lo sviluppo, sono nemici dello sviluppo, no. E ce ne occupiamo? Ah, scusami, prego. Perché insomma il suolo ce n'è uno solo, se lo consumiamo, ce n'è esatto. uno solo di suolo, se lo consumiamo non c'è più neanche quello, il ritmo che stiamo avendo è tale per cui... Quanto manca? Non tanto, e quindi bisogna muoversi, e quindi ce ne occupiamo anche per questo, perché è una legge che è ferma da maggio 2016, quindi sono passati 500 giorni, forse è ora di sbloccarla, è ora di andare avanti. E ne parliamo con due persone che ne sanno, anche per aver vissuto in prima persona questa vicenda, autori del libro, Matilde Casa e Paolo Pileri, autori del libro... Il suolo sopra tutto, ed è scritto con una T sola, non perché è un errore, ma perché è diviso in due parole, cioè sopra, al di sopra di tutto, il suolo sopra tutto. Eccoli qua, buongiorno Matilde Casa. Buongiorno. Sindaco buongiorno. Di Lauriano, in provincia di Torino, e Paolo Pileri, professore ordinario di pianificazione e progettazione urbanistica, Politecnico di Milano, ho detto tutto? Buongiorno. A Paolo Pileri, professore, lo conosciamo anche perché con lui abbiamo raccontato queste stesse vicende, e anche per dirne una, la vicenda della ciclabile Vento, su cui pure ci sono notizie, ma adesso non andiamo fuori strada. Dopo ne parliamo. La Venezia Torino tutta in bicicletta, esatto. Più di 600 km sul Po. Allora, come? Cioè, qua siamo, si può fare Radio 24, mica wow, pizza e fichi. Allora, la storia di Matilde Casa, sindaco di Lauriano. Io faccio un brevissimo preambolo. Paesino di 1500 abitanti, è stata denunciata perché semplicemente nel piano regolatore che ha approvato in consiglio comunale ha provato a infrangere un tabù, cioè a dire, siccome è l'unico modo per evitare inutili colate di cemento è rendere agricoli terreni edificabili, cioè tornare a fare un passo indietro rispetto a previsioni fatte in passato che prevedevano appunto edificabilità a gogo, a manetta. Sembrava normale indirizzo di amministrazione di un paese dove c'erano già i pannelli fotovoltaici sui tetti, l'illuminazione a LED per il risparmio energetico, eccetera, eccetera. Invece, tac, arriva una denuncia, inizia un'odissea, poi finisce bene, ma raccontiamola, Matilde Casa, questa odissea. Sì, è stata un'odissea appunto finita bene, che diciamo è cominciata proprio nell'applicazione del nostro programma elettorale, diciamo, che prevedeva tutte le cose che lei ha detto e anche altre cose di tipo la rinuncia ad un finanziamento regionale per costruire una scuola nuova, acquistando invece con fondi nostri un edificio nel centro storico e rimettendolo, ristrutturandolo. Quindi ecco, questo già è una cosa che già è molto saggio, non da poco. Perché partiamo da questo, ce la spiega meglio questo aspetto, perché questo già ci sono edifici, usiamo gli edifici che già esatto. abbiamo, forse esatto. invece che occupare del nuovo suolo per un nuovo edificio e mantenere il vecchio edificio senza magari nemmeno ristrutturarlo. Pericolante. Esatto, ci sono due conseguenze, due riflessioni da fare su questo. Il primo è che vengono dati i fondi per costruire ex novo e non mi sono stati dati, in molti casi non sono dati per le ristrutturazioni, ma soprattutto è una follia. Un valore anche sociale il fatto della ristrutturazione del centro storico, perché significa mantenere vivi questi nostri centri storici che sono sempre più abbandonati. E io mi aspettavo che questa scelta, che è stata una scelta pesante, perché dico nel libro non ci ho dormito due notti, perché rinunciare a un fondo come 500.000 euro per un paesino come il mio è stata una scelta forte, mi aspettavo forse molto più un attacco da questo punto di vista, invece quello che è successo ha avuto del paradossale, cioè noi abbiamo fatto un piano regolatore, come si spiega nella prima parte del libro, che è un po', cioè parte un po' dal racconto, diciamo, da quelle che sono le teorie degli urbanisti come il professor Pileri, che partendo da un caso come il mio abbiamo voluto provare a far trovare una eco a questa storia. Dicevo, facciamo un piano regolatore in cui per la prima volta in Italia diminuiamo le superfici edificabili. Voi parlate della legge, si parla appunto di consumo zero. In realtà quello che io ho fatto sotto zero. Cioè voleva andare in consumo negativo, no? Esatto, quasi, anche, sì. Anche, ma è come mi piace dire, oltretutto, è una scelta, diciamo, ambientalista, ma anche economica e anche di buon senso, perché in realtà Lauriano, come moltissimi altri paesi e città, non ha un incremento demografico e soprattutto ha due terzi dei delle abitazioni che sono vuote. Ecco, io vorrei che anche su questo gli ascoltatori si fermassero un attimo a pensare, perché io immagino già molti che stanno ascoltando dicono, consumo zero, questi vogliono fermare lo sviluppo perché non ha voluto fare la scuola, bla bla bla. Allora, ripetiamolo tutti insieme come se fosse un mantra. A Lauriano ci sono 2/3 di abitazioni vuote un terzo e non c'è crescita demografica, quindi perché diavolo bisogna costruire? Cioè, ragazzi, e anche su questo discorso del appunto di quelli che vogliono fermare lo sviluppo, cioè io ho vinto l'anno scorso Legambiente, mi ha premiata come ambientalista dell'anno e questo è un po' stato un po' il finale, diciamo, del felice positivo dell'Odissea. Ed è particolare, lo dicevo proprio in fase di premiazione, che abbiano premiato un amministratore, cioè io non sono un ambientalista perché lo sono, perché in realtà dovremmo esserlo tutti. In realtà, però scusi se la fermo su questo, sindaco, perché in realtà vorrei prima finire la vicenda, che è importante, perché lei si è trovata contro uno che voleva invece costruire delle villette, perché aveva i diritti di edificabilità, e questo poi è il tema che adesso lo lancio a Pileri per allargare un po' il quadro su scala nazionale, perché il problema di chi cerca saggiamente di frenare il consumo di suolo è che poi si trova di fronte i diritti di edificabilità, e quindi persone che sono contrarie a che i loro terreni, diciamo, perdano valore, perché è evidente che un terreno perde valore. Saltando questo passaggio, che poi facciamo dopo magari con Pileri, lei è stata assolta alla fine, il lieto fine, perché è stata assolta? Le hanno dato ragione. Allora, quello che è strano della mia vicenda è che normalmente, come dicevo, contro un piano regolatore si ricorre al TAR. Quello che a me è successo è che io sono stata denunciata e ho avuto un processo penale, quindi ho avuto un processo per abuso d'ufficio con una richiesta di detenzione di 1 anno e mezzo e 120.000 euro di danni. A Cipicchia. Cioè, una cosa molto folle. Non facile, sono stati 2 anni di processo in cui, come scrivo nel libro, non solo io ero convinta di essere innocente, ma io ero convinta di aver fatto una cosa che andava, non dico premiata, ma quantomeno... Perlomeno un grazie. Ma le posso chiedere una cosa? Sì. Nel paese di 1500 abitanti, immagino che ci sia uno di questi 1500 che ha fatto questa denuncia mettendola in grossissime difficoltà, ma gli altri 1498, a questo punto, escludendo anche lei, come la pensavano? Cosa le dicevano? La incontravano per strada? Cosa hanno fatto? No, 1497, perché mia figlia anche mi dava ragione. Certo. In particolare lo cito nel libro, nel finale, quando io la porto a scuola e dico, lei mi è sempre, la mia figlia è una liceale, era molto, come dire, orgogliosa di me, anche i suoi amici mi hanno fatto... E gli altri? E anche gli altri del paese, sì, anche perché oltretutto questa zona che è stata tolta, ed è una cosa che non dico nel libro, è una zona a cui il paese è molto legato, perché è un piccolo colle in cui i bambini vanno in slitta d'inverno. Quindi c'è stato un po' di riconoscenza su questo. E l'ha aiutato a vincere il processo? Cioè, qual è la motivazione per cui in realtà poi il processo, che così lo diciamo per altri amministratori? Il processo io l'ho vinto e nella motivazione, nella sentenza è scritto perché il fatto non sussiste. Certo. Viene da pensare, io però ho passato 2 anni abbastanza difficili per qualcosa. Questo, diciamo, è un altro capitolo. Quelli sussistono. È quello quelli della giustizia. Pileri, Paolo Pileri, professor Pileri. Sì, allargando il quadro, no? Cioè, se vuole intanto un quadro sul consumo di suolo a livello nazionale, però insomma, sappiamo che c'è un ritmo che sta un po' rallentando, però è un ritmo sempre molto veloce ed è quello poi che ci preoccupa. Però andando poi al cuore della questione, no? C'è un modo, avete pensato un modo, voi professori, insieme anche a questo caso qui del sindaco di Lauriano, per superare questa questione della mancata edificabilità? Cioè, se si vuole fermare il consumo di suolo bisogna andare contro questi interessi. Come si può fare? La questione è squisitamente politica e culturale, non ne usciamo. Cioè io, se fossi il presidente Grasso, non dormirei la notte avendo sul comodino 80.000 firme che chiedono cortesemente di far fare un passo in avanti, non indietro al paese, perché quello che dobbiamo davvero capire è che fermare il consumo di suolo l'hanno fatto tutti i paesi che hanno un PIL, un'economia, un'occupazione migliore della nostra. Cioè, per esempio? Questo deve essere molto molto chiaro. Beh, Germania ha frenato, Francia ha bloccato, tutti i comuni sotto i 15.000 abitanti non possono più toccare un centimetro quadro di suolo libero. Gran Bretagna... Mi viene in mente di fare un paragone senza offendere nessuno, però così chiudo gli occhi, penso alla Liguria, penso alla Costa Azzurra, certamente saranno anche diciamo zone non paragonabili tra di loro, ma se si fa un paragone si capisce anche qual è la conclusione, no, a cui si arriva. Cioè, Liguria, posto meraviglioso ma super cementificato, Costa Azzurra no. Poi quale, diciamo, dal punto di vista turistico funziona di più, per esempio, la butto lì, è una considerazione che lascio agli ascoltatori. Prego, Pileri. No, appunto, dicevo, non si tratta, cioè bisogna lavorare anche culturalmente, qui la politica deve fare anche da portavoce di questa iniziativa culturale, come lo devono fare le accademie, che purtroppo sono ancora troppo zitte, sì. E così faccio un je m'accuse, a spiegare che, voglio dire, non stiamo per nulla frenando lo sviluppo, ma si sta lavorando a immaginare come uscire da questa errata idea di sviluppo. Chiaro, come diceva Matilde Casa, oggi noi in Italia siamo pieni di case non utilizzate, pieni di capannoni non utilizzati, eppure si continua a costruire. Perché? Costa di più ristrutturare, ma guardi, che costruire. Forse no. neanche questa cosa qua. Abbiamo dimostrato in molti casi che costa uguale o perfino addirittura, in certi casi addirittura costa di meno. Comunque, anche se costasse di più, innanzitutto lo Stato si mette a... come dire, a moltiplicare gli incentivi per recuperare, ma come farlo? Bloccando totalmente il nuovo, perché voglio dire, alla fine, se alla fine tu lasci aperte le possibilità del nuovo, non riesci a recuperare, questa è una questione forse di mercato. Faccio un'ipotesi, no, Pileri? Forse un'ipotesi, diciamo, che ha a che fare con la struttura finanziaria, no, del paese, cioè per il singolo proprietario della singola casa vecchia, abbandonata, ristrutturare può avere un costo, per chi può concentrare grossi capitali e fare un investimento per una lottizzazione di un centro commerciale, una serie di palazzine, che ha dei capitali a disposizione, quell'investimento lì, anche se fosse uguale, è chiaro che ha un costo minore, perché tu quel capitale ce l'hai, quindi bisogna aiutare i piccoli proprietari, sì, a fare questo passo. Ma anche grandi, cioè in America, se vuoi fare un centro commerciale devi mettere lì i soldi in anticipo per poterlo smontare a fine ciclo, in Italia no, cioè lei capisce che è il paese dei nababbi, cioè nel senso che io faccio un centro commerciale, lo tengo aperto 5-6 anni, prometto all'inizio di assumere un po' di gente, faccio finta, lo assumo, ma dopo 2 anni magari, voglio dire, se ne va via. Dopodiché dismetto dopo 5 anni il mio centro commerciale e la questione, la palla la rimando alle autorità pubbliche. Questo non esiste. Ma si può cambiare, esiste, questa cosa? Cioè all'interno di questa legge c'è per esempio anche il fatto che... No, allora, questa legge dobbiamo dircelo, sì, come dire, è un buon inizio, va bene? Ma non di più. Questa legge che è ferma, esatto, da 500 giorni, sarebbe anche inizio, solo un buon inizio. Però attenzione, perché poi anche gli urbanisti ci si mettono insieme alla politica a, come dico sempre io, come abbiamo detto anche nel libro, a manomettere le parole. Perché anche questa legge contiene delle cose, delle definizioni che non sono la realtà, tipo cos'è una superficie agricola. Bah, io ho sempre pensato che fosse un campo, lo vedo e eccolo qua. E invece no, cioè... Allora, questa legge è un buon inizio, comunque sia, questo, la cosa importante sono le firme che sono arrivate a Grasso, la seconda autorità del paese, che faccia qualcosa. Certo, ma mi scusi, ma la legge prevede degli indennizzi? Perché io mi immagino che da un lato, giustissimamente, io sono assolutamente d'accordo, non bisogna più edificare suolo pubblico assolutamente, o suolo in generale, però poi penso al privato che ha il suo pezzetto di terra, che l'ha comprato, pagato perché è edificabile, che improvvisamente gli diventa non edificabile, come secondo me è giusto per la collettività, però non è che deve pagarla lui, e lui come si deve regolare, che improvvisamente ha un terreno che prima poteva metterci sopra delle villette, adesso può solamente invece seminare del grano? Però dobbiamo anche capirci su una cosa: se io compro un'azione dell'Enel, va bene, facciamo un altro esempio, compro un'azione dell'Enel che vale 1, dopodiché penso, spero che domani valga 2, in realtà mi ritrovo che vale 0,5. Non è che lo Stato mi rimborsa 0,5 che io avevo ciosmenato. Cioè non certo, riesco a capire perché invece sul suolo tu hai avuto un'edificabilità. Beh, peraltro, forse perché è una promessa di diritti fatta, nel senso, appunto, i cosiddetti diritti acquisiti, e non la casualità. Ma non sono diritti, questo ormai è stato spiegato e rispiegato anche da sentenze. Cioè il diritto, lo voglio chiarire per tutti gli ascoltatori, giusto, il diritto scatta solo quando hai in mano un permesso di costruire. ovvero che tu hai presentato un progetto in comune. Come nel caso non era nel caso di Laureano. E qui torno a Matilde Casa, sindaco di Laureano, denunciata ma poi assolta per aver reso non più edificabili dei terreni e quindi farli tornare agricoli. A cui voglio chiedere, tra l'altro, alla fine anche un po' di questa esperienza, è più o meno ottimista sul fatto che l'Italia in qualche modo sia pronta a cercare di camminarsi in un modo o nell'altro verso questa consapevolezza seria, perché sappiamo che su questa questione dell'edilizia nuova, perché poi diciamo che c'è l'edilizia da ristrutturazione, che è una filiera importantissima che porta lavoro a centinaia di migliaia di persone, si potrebbe fare tanto, però fino ad oggi abbiamo guardato solo a quella nuova. Quindi diciamo che l'Italia possa cambiare passo su questo. Lei, dopo la sua esperienza, più o meno ottimista? Sono ottimista di natura, altrimenti non mi sarei messa a fare il sindaco, vero? Che chi si mette a fare una cosa di questo genere ora deve avere una forte dose di ottimismo. E sono ottimista perché dopo una prima fase di sconforto, la seconda parte invece è stata di grande soddisfazione, non solo per il premio o per la pubblicazione del libro, ma proprio da questo libro, con Paolo Pileri e altri amministratori e associazioni, ci chiamano un po' in tutta Italia a parlare di questa cosa. Ecco, io credo che ci sia proprio un nuovo modo di pensare anche degli amministratori. Noi siamo stati in Sardegna, in Trentino, veramente in tutte le parti, perché ci chiamano non tanto per la verità del libro, che insomma spero sia scritto bene, ma proprio per parlare di questo, e sono moltissimi gli amministratori e le persone che ne vogliono parlare. Quindi credo che sì, qualcosa si stia muovendo, e come diceva giustamente il professor Pileri, io credo moltissimo al fatto che sia un nuovo modello di sviluppo. Dobbiamo pensare a qualcos'altro. Esatto, modello di sviluppo. Diciamolo forte, che è un modello di sviluppo, non un frenare lo sviluppo, ma un altro modo, per concepire lo sviluppo. E soprattutto è un cambio di paradigma, perché lei prima ha toccato un tema molto importante. Ha detto: mi hanno dato un premio ed è strano perché io sono un amministratore e non un ambientalista. Poi giustamente ha detto: sono anche un ambientalista. Ecco, secondo me va capito che essere un ambientalista è un approccio, non vuol dire essere un rompiballe, un rompiscatole che viene e cambia le cose. Uno può essere un amministratore e anche ambientalista, e avere un approccio da ambientalista che è positivo. Quindi l'ambientalismo va benissimo. Io ringrazio i nostri ospiti Matilde Casa e Paolo Pileri. Il libro Il suolo soprattutto, ricordiamo anche la prefazione di Luca Mercalli, che spesso invitiamo. E questa è la storia, cari ascoltatori. 800 24 00 24, se volete dire la vostra anche su questo. Noi siamo qua, torniamo tra poco dopo la pausa. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Messaggi SMS e WhatsApp. A Milano 100.000 bici sono pochissime, pensate, nel Veneto ne abbiamo almeno una ogni due abitanti. Momento proloco di un ascoltatore che ci chiama dal Veneto. E poi ancora tanti commenti sul sindaco di Laureano, Matilde Casa, la storia, il suolo soprattutto. Vorrei solo sinteticamente dire al sindaco Matilde Casa: grazie di esistere, scrive Maria Rosaria. E poi ancora parole sante, scrive un altro ascoltatore: i comuni dovrebbero impedire di costruire nuovi edifici, ci bisogna recuperare e ristrutturare il vecchio. Molto bene, andiamo con la diretta. Giuseppe da Rimini, benvenuto, e cerchiamo il personaggio della settimana. Buongiorno. Vai, Giuseppe, vai. Buongiorno. Io ho in mente Roberto Maroni. Perché? Perché questa settimana ha dichiarato che se dovesse vincere il sì nel referendum, indipendentemente dall'affluenza, è pronto a preparare una squadra bipartisan, e poi anche perché comunque è un appassionato di musica, un chitarrista, se non mi sbaglio. No, suonava uno strumento a fiato, cos'è? Sassofono, mi pare, sì. È vero, sassofono. Sì. Io metto questo. Bravo Giuseppe, molto bravo. È tutto giusto, tranne il nome e cognome. Cacchio però, vedi, però devo dire che in questo caso è riuscito in qualche modo ascoltare a mettere in fila tutti e due gli indizi. Intanto succede. Esatto. Se non dovessero indovinare... È quello che volevo dire anch'io. Se non dovessi indovinare, il notaio farà un pensierino se dare il premio a te. Glielo diamo ad onorem. Cosimo da Pistoia. Buongiorno e buon domenica a tutti. Vai. Io avevo pensato a Ettore Rosato per essere riuscito poi a mettere d'accordo la squadra parlamentare. O a torto a ragione è passata, quindi dopo tanto il parlare si è fatto qualcosa. E la musica? E la musica, la musica è quella che pagheranno gli italiani se poi ovviamente faranno scelte sbagliate, però questa è almeno vabbè, a mio avviso il personaggio della settimana. Rosato è sicuramente il personaggio della settimana, ma in prima pagina su tutti i giornali Rosatellum se ne è parlato tanto, per noi forse era un po' troppo scontato, scusami Cosimo, ma insomma, e quindi non abbiamo pensato di fare Rosato, del Rosatellum come personaggio. Allora ripetiamo gli indizi, abbiamo ancora qualche minuto, ma siamo sicuro che ci arriverete. Sa fare squadra e si interessa di musica, anche se questa non è la sua prima attività. Ok Woo! I wanna try to make her move, but everything feels wrong. I want to fight, she's always trying to make me know she's strong. She leaves a plastic case and all the steaming dress she buys. She bids you go by here and you look fine, you look fine. Okay, okay, okay, okay. Okay, okay, I'm on the go. Okay, okay, I want your show. Okay, okay, I'll call you late. Allora, adesso conosciamo una persona che è lui stesso un si può fare vivente, mettiamola così. Mohamed Hamadi è un signore di 70 anni, siriano, musulmano, da 30 anni in Italia, ed è una delle 2000 guide volontarie del Touring Club all'interno del progetto Aperti per Voi. Si tratta di volontari che, insomma, dedicano una parte del loro tempo per far vedere, tenere aperti cosa? Soprattutto per mantenerli aperti, che altrimenti sono dei luoghi che altrimenti senza queste 2000 guide volontarie che ringraziamo sarebbero chiusi. Chiese, monumenti, musei, palazzi. Mohamed, buongiorno. Buongiorno, buongiorno voi. Benvenuto. Allora, Mohamed ha la particolarità appunto di essersi ritrovato, lui, siriano, cittadino in Italia da molti anni, ma musulmano, a fare la guida, per esempio, anche in alcune chiese. E, insomma, la dimostrazione che in qualche modo si può fare, no? Si può fare anche questo, in un momento in cui le religioni spesso dividono. Intanto però, Mohamed, ti vogliamo chiedere come hai iniziato, perché hai deciso di fare il volontario del Touring? No, come io sono in pensione. Sì. Ecco, poi l'anno scorso ho provato di fare il volontariato con l'Expo. Sì. Non sono riuscito. Ah. Non ti hanno preso per l'Expo? Non ti hanno preso? No, non lo so per quale motivo, comunque non c'è stata la possibilità. Forse niente. Cercavano dei giovanotti. Dei giovincelli, tu sei un uomo d'esperienza. Può darsi. E comunque in ogni caso sì. Mi hanno informato che c'è una organizzazione Touring Club a Milano, sì. Questa molto famosa, sì. E cercano personale come te che parla diverse lingue. Perché tu parli diverse lingue, quante? Quali? Francese, inglese, l'arabo, l'italiano. Insomma, sono quattro. Già queste complimenti. Coprono il 60%, la butto lì, della popolazione mondiale. Però è inutile girarci intorno, no, Mohamed? Tu sei siriano, sei musulmano. La tua religione, no, in qualche modo ti limita, ti impedisce, ti crea difficoltà nel fatto di frequentare chiese cristiane, perché siamo in un momento nel quale sembra che queste religioni, come è spesso successo in passato, non possano convivere tranquillamente, che ci siano delle difficoltà. Invece tu sei la dimostrazione che si può fare. Come la vivi? No, la religione non impedisce per niente queste cose. Alcune persone della fede islamica che non conoscono bene la loro fede, e allora viene interpretata nel loro modo. Io in Siria, nel mio paese, ho frequentato la scuola superiore in una scuola tutta cristiana, tipo qui in Italia le chiese cristiane. Comunque gli studenti che erano con me nella questa chiesa e questa scuola erano più musulmani di cristiani. Poi veramente noi non abbiamo fatto caso quell'epoca che sapere che questo musulmano o questo cristiano, eravamo semplicemente studenti tipo salesiane qui a Milano. Sì. Hai parlato della Siria, no? Quanti anni sono che non vai? Che notizia hai? Oggi sui giornali c'è una notizia che riguarda Raqqa, capitale dell'ISIS, cade, sembra che sia stata quasi del tutto liberata dall'ISIS, sarebbe un'ottima notizia per la Siria, per i siriani, ma direi per il mondo intero. Mohamed, che notizia hai dalla Siria? Da quanto manchi? No, io non sono più tornato perché io sono uscito per motivo in politica, perché ero dissidente al regime della Siria quella epoca. E non potevo. E sei stato anche arrestato in Siria, giusto? Sì, diverse volte. Ero giovane, poi il mio papà ha deciso di dirmi che tu devi lasciare Siria, vai a frequentare l'università a Beirut. E poi ho finito studiato a Beirut, poi sono andato in Kuwait a lavorare perché non potevo tornare in Siria, poi ho scelto il paese europeo qui a venire a vivere, in Italia, specialmente in Italia. Mm. Hai scelto Milano? No, all'inizio ero in Toscana, a Lucca. Ah, Lucca. Sì, però per il lavoro che facevo io o per quello che sono venuto a farlo, import-export, Luca non mi offriva tante cose che servono per il mondo arabo. Mm. Cioè, senti, Mohamed, in una delle foto che ti ritrae, in cui si parla della tua storia attraverso il fatto appunto che sei guida del touring, si fa riferimento anche al fatto che proprio in queste chiese tu si ritrova negli affreschi tracce di un passato in cui la religione cristiana e la religione musulmana si intrecciavano anche pacificamente. Ci sono stati in passato, inutile negarlo, le crociate, momenti in cui le religioni si sono combattute, ma anche lunghi momenti in cui le religioni hanno convissuto serenamente, tranquillamente. A me per esempio ha colpito quando sono andato in Marocco vedere sul minareto le tre sfere, no, che rappresentano le tre religioni, la più antica, l'ebraica, la cristiana e la musulmana, in un segno quindi di convivenza serena e pacifica. Tu che traccia hai ritrovato frequentando queste chiese che poi racconti anche ai turisti? Io la verità, appena sono entrato, non sapevo, la prima volta che loro mi hanno mandato a questa chiesa, guardavo una cosa meraviglia come pittura. Poi ho cominciato a approfondire che cos'è questa pittura. Visto, faccio un esempio, la barca di Noè, è scritto nel Corano un fascicolo su quella storia. Guardavo avanti e guardavo anche la storia di Gesù Cristo. E poi ognuno esprimere diversamente dell'altro, però il concetto è sempre uguale. E poi sono andato ancora avanti a approfondire, visto c'è Adamo, Eva, poi visto c'è Abramo, un quadro di Abramo. Insomma, abbiamo più cose in comune di cose che divergono, direi. È la storia, è una lettura della storia. Poi c'è chi dà letture diverse, ma insomma, ma a noi così. Oggi interessava raccontare la storia di Mohamed Hamadi, guida volontaria del Touring Club nell'ambito del progetto Aperti per Voi. Grazie Mohamed. Alla chiesa di San Maurizio a Milano che lo incontrate. Esatto, per essere stato con noi, per averci raccontato la tua storia. Oh, ma siamo andati lunghi, sono le 9:50, c'è il traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. C'è un ascoltatore che ci chiede: Massimo, ho acceso ora la radio, qual è il titolo del libro? Si riferisce al libro prima, l'intervista precedente, certo, di Paolo Pileri e Matilde Casa, Il suolo soprattutto, cercasi terreno comune, dialogo tra un sindaco e un urbanista, prefazione di Luca Mercalli. Antonia da Udine, benvenuta. Buongiorno. Grazie Antonia, anche tu lo sei. Grazie. Soprattutto per averci chiamato. Cosa vuoi dirci? Vorrei partecipare al gioco. Prego. Il nominativo è Baglioni? Claudio, il nominativo è Baglioni, sembra di essere il in questura. No. Claudio Baglioni, il cantautore. Certo, qual è la notizia? La notizia è che parteciperà, sarà direttore di Sanremo, direttore artista, quindi fa squadra e tutto lì. Non è proprio di questa settimana la notizia, no, e, ma soprattutto è non bello. È che partecipa, è il direttore artistico e presentatore della prossima edizione a febbraio di soprattutto Sanremo. Il nostro secondo indizio diceva la musica è un suo interesse, ma non è la prima, sua prima attività. È il caso di Baglioni, direi credo che si offenderà, si forse Baglioni, quindi non era lui. No, Antonio, ringraziamo molto però di aver chiamato. Francesca da Genova, vediamo un po'. Francesca, buongiorno, buongiorno, buongiorno Alex, buona domenica. Buongiorno Carlo. Vai. Allora, secondo me è George Weah. Vabbè, ha fatto parte del Milan come squadra. È partito subito l'applauso, così secco. È partito l'applauso, ma ci racconti la notizia. Allora, la notizia è che sarà il prossimo presidente della Liberia. Così è troppo, al momento è al ballottaggio, sì, è direi. Ballottaggio, esatto, non poi, vendo, però, insomma, lo danno per vincitore. O lei ha delle informazioni che noi non abbiamo ancora, no, e allora la chiamiamo anche domani. Ahimè, non sono ancora una cartomante o cose del genere. Comunque, si porta a casa i biglietti per la mostra Egitto, grazie, al MUDEC di Milano. Grazie a lei. Brava Francesca, complimenti. E questo è Weah, perché lui ha anche cantato, oltre ad aver giocato a calcio, ha fatto un po' il musicista con esiti scarsi. Potrebbe essere che l'anno prossimo conduca Sanremo, direi, a questo punto. Enrico da Roma, per chiudere, vai. Enrico? C'è Enrico? Buongiorno. Buongiorno. Io volevo intervenire sull'uso del suolo, sì, perché sono un architetto di Roma, Enrico Cerioni. Hai un minuto però, te lo dico perché sì, dobbiamo chiudere. Allora, è fondamentale sulle scelte del futuro e della rigenerazione urbana. Nel Lazio la regione ha promosso una legge sulla rigenerazione urbana, ma l'uso del suolo è fondamentale per tracciare il futuro delle città. Siccome naturalmente la crescita è zero, è fondamentale determinare dei processi per cui si investe sulla rigenerazione e sull'esistenza. Rigenerazione, direi che su questo ci dobbiamo fermare. Grazie Enrico, perché abbiamo finito il tempo e quindi dobbiamo solo salutare. Si può fare un programma realizzato da noi insieme ad Andrea Piana, Claudia Schiattone, con Barbara Bianchi oggi in assistenza in diretta, Peter Bescapè in regia. Noi ci sentiamo sabato prossimo. Certo che sì. Ciao da Alessio Maurizio. E ciao da Carlo Gabardini. Buona domenica. Ciao anche a chi ci ascolta in podcast.